Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ciao a tutti, Cibus Italia. Come Expo. Va? Come Pierluigi va? Pardo qui con... Alziamo il ritorno, il volume, come tutto bene? Cibus Italia, eccoci qua, perfetto. Cibus Italia all'Expo. Dimmelo tu. Dove oggi stiamo per mettere il nuovo record di visitatori, no? Paese reale, sì. Tutti. Hai fatto i selfie fino a 8 secondi fa. Sì, e io ti chiamavo Pierluigi, siamo in onda. Sono bambini, sono creature. che gli spieghi? 800-24-0024 per parlare con noi. È il grande giorno di Juve Boca Juniors Leggende su Premium. È il grande giorno del basket. Sì, vado a farla. E poi anche su Italia 1. Ah, ma vengo anch'io. Mi sono dimenticato che... Vieni. È il grande giorno l'Italia-Spagna del basket, invece questo su Sky par condicio. Beh, grande partita. Ne prendiamo senza dato. No, vabbè, ottimismo, dai, ottimismo, ottimismo. Ottimismo ne prendiamo. C'è l'autoressa Elena Tambini, che ormai il pubblico della Moviola è uguale per tutti, di Premium conosce. Buongiorno, dottore. Ecco, buongiorno a lei. Professione signorina. Arbitro, tu a che età hai cominciato? All'età di 18 anni, ero già abbastanza grande. No, quando hai finito? Ho finito quest'anno. Quest'anno, sì. Ecco qua. Io sono un po' intimorito, devo darle del lei o del professore? No, puoi fare quello che vuoi. Mi può chiamare direttore. C'è anche la sorella che però... Mi può chiamare direttore. Perché direttore? Okay. Direttore di gara. Ah, direttore di gara, giusto. Che sì, sono a chi ti ispiravi quando arbitravi? A chi ti ispiravi? Dinne uno. Uno? Vabbè, a me Rizzoli, classe, è sempre piaciuto tanto. Rizzoli è piaciuto tanto. Abbiamo già quell'arbitro in linea? Benjamin, dai. Benjamin, ottimismo, grande entusiasmo, Benjamin. Sì o no, Niente, non sappiamo se è in linea o no. Non è in linea, Una grande sorpresa. Non c'è. Come non c'è? Continua. L'ho sentito un minuto fa. Vabbè, fra un attimo sentiremo qui. Ti ispiri a Rizzoli, a Rocchi? No. Più Rizzoli. Mi piace molto il rapporto che sta ora con i giocatori. L'autorevolezza. C'è chi dice che Rizzoli sia meglio all'estero che in Italia. Probabilmente è colpa di noi italiani che tendiamo a far polemica su tutto. Perché poi alla fine Rizzoli ha fatto, per esempio, una grande finale mondiale e è arrivato a quella finale mondiale perché è bravissimo. Non c'è discussione su questo. Qualche volta in Italia. La situazione è complicata. Vuoi lanciare un appello per i tanti arbitri? No, senta, direttore di gara. No, a parte per i tanti arbitri. Facciamoli incazzare tutti. Okay. No, non mi mettete in mezzo in queste cose. L'amo viola in campo. Sì. Sì? No, aspettavo la domanda. Graziano Cesari, come va? Buongiorno. Bene, buongiorno. Ecco, siamo qui con la dottoressa Elena. Ciao, Graziano. Ma è quello vero? Con la quale conduci la Moviola per tutti. Ma sei quello vero o sei... Secondo te, se ti dico questa frase, sono quello vero o quello finto? Quello vero. No. Quello finto. Raigo. Ti è mancato Tiki Taka ieri sera? Che hai fatto? Che lunedì sera hai passato senza Tiki Taka? Guarda, tristissimo. Non si può vivere. Quasi piangevo. No. Che facevi? Che ti fatto un tonno e fagioli a casa? Già possiamo fare. Senza Tiki Taka già possiamo fare. Mi sembra eccessivo. Mi sembra eccessivo. Va bene, cose legate agli arbitri negli ultimi giorni ci sono state, Elena? No, tutto tranquillo. Tutto tranquillo. Qualche cosa in campo internazionale, ma dai, ma lì i confini sono larghi, chi se ne frega? Aspettiamo il derby. L'Italia è andata bene. Aspettiamo il derby. Non parlate più di cinque alla volta, che non si capisce niente, perché se gente mi sovrasta la Tambini che parla sopra Cesari, stop al televoto. Il processo. Allora, si potrebbe fare il sondaggio: chi preferite fra Cesari e la Tambini? Quindi vi preghiamo, insomma, io sei cattivo. Cosa voteresti? Io voterei la Tambini senza un po' di dubbio. Però lei ha detto che si è ispirata, quando le ho chiesto a chi si ispirava come metodo di arbitraggio, come stile di arbitraggio, m'ha detto Rizzoli. Non m'ha detto. Vabbè, allora cambio. Non viene più. No, ma mi dice, no, basta. No, mi certo, dici, Graziano, un tuo modello arbitrale, se ce n'è uno, insomma, un arbitro che ti piace particolarmente. Il modello arbitrale era Agnolin, il mio modello arbitrale, molto dal punto di vista tecnico, dal punto di vista comportamentale no, perché non avevo né il fisico né di Agnolin, né la grinta di Agnolin né la cattiveria di Agnolin, quindi non potevo certamente dal punto di vista disciplinare di comportamento assomigliare a lui, però tecnicamente certo. È un arbitro che mi piaceva moltissimo. Poi è chiaro, ma... avendo un fisico così da ridere. Ma no, dai, non buttarti giù, non buttarti giù. Ma era lui quello di Juventus Perugia 1970 e qualcosa, forse 8, vi faccio un quello così, era lui? Sì, quello, vi faccio un testo così, vi faccio un testo così, aveva detto, no? Era lui. No, Pierluigi era piccolo, non se lo ricordo. Ma avresti visto, abbronzato, con la lampada negli occhi, con questo fisico, con i capelli lunghi, di uno, vi faccio un testo così. Ah no, certo. Poi mi capavo da ridere anche a me. Era impossibile. Senti, ma la cosa, ci dite tutti e due qual è la cosa più difficile per un arbitro? Qual è la situazione tecnicamente più difficile per arbitrare una partita? Beh, sì, vai Graziano, poi Graziano, poi tecnicamente è quello di prendere la decisione corretta in pochi secondi, no? E quindi può essere dal fuorigioco al gol non gol, al calcio di rigore. La decisione che tutti non vogliono è quella del calcio di rigore, perché è un momento decisivo della partita. Quindi inevitabilmente ti porta contestazioni, nervosismo e spesso contrarietà durante il proseguo del match. Certo. Elena? La difficoltà tecnica è dovuta principalmente alla velocità delle azioni, secondo me, che spesso concitate, spesso veloci, ti impediscono di vedere con chiarezza tutto quello che succede. Ma quando uno per esempio è impallato, perché succederà che anche se tu stai correndo bene, se ti sei allenato bene, per una sfiga essenzialmente, il contatto, il presunto contatto fra due giocatori ti viene impallato da un altro. Che fare a quel punto? Al Ghingotti, la della monetina, che succede? Beh, è quella cosa che bisognerebbe prevenire con il senso tattico, quindi intuire che c'è non un corpo davanti. Non trovarsi mai in quella situazione. Esattamente, lì. Nel caso in cui ci si trovi bisogna decidere un po' di pancia, avere un po' di istinto, e in questo l'esperienza aiuta tanto. Ma invece è vero, Graziano, scusami, una cosa da più da assistente, che sul fuorigioco... gli assistenti guardano la linea e ascoltano il momento dello schiocco del pallone? Sì, cioè non guardano quello che sta calciando, ma guardano quello sulla linea? Sì, questo è quello che consigliano, però chiaramente mi sembra molto difficoltoso sentire il calcio al pallone, specialmente in uno stadio che grida, che urla, che fa il tifo, partecipe all'evento sportivo, è difficilissimo questa cosa. Cioè io certe volte, quando noi diciamo è fuori gioco di qualche centimetro, certo. È chiaro che in televisione andiamo a nozze, perché è il nostro mestiere quello di criticare, di fare opinione, quello di fare polemica, però sul terreno di gioco è quasi impossibile poter percepire una distanza così minima tra difendente e attaccante. Assolutamente. Io guarda, poi ho avuto qualche esperienza, forse non ti ricorderai, ma tanto tempo fa, quando ero giovane, gli arbitri facevano anche gli assistenti, quindi non facevano solamente l'arbitro centrale, ma operavano con gli arbitri più importanti e davano a fare assistente. Tu figurati che è di una difficoltà immensa. Poi uno che non è abituato a correre in senso diverso da quello che è un arbitro centrale, come fa a vedere le cose? È proprio una cosa improponibile. Poi l'allineamento è difficilissimo, perché poi ti scappano, vanno avanti e indietro, quindi è un lavoro veramente molto molto molto brutto. Però ti devo dire una cosa, vorrei rispondere a quello che ha detto lei, per sottolineare quanto ha detto di carino e di giusto prima. Però ci sono anche delle situazioni in cui tu ti accorgi, se sei impallato, dall'atteggiamento dei calciatori, da chi fa fallo, dalla caduta. Posso dirti, a parte il fatto che qua mi stanno sventolando tutti i cartelli del mondo, che c'è il traffico. Facciamo traffico, gli stai lì, Graziano sta fermo. Fighi della Madonna, perché è difficilissimo, arbitrare. Difficilissimo. Soprattutto alla velocità cui vanno oggi. Alla velocità del traffico. Traffico. Tutti convocati. Convocati. Occhio perché Cagliari però adesso può andare in contropiede con Farias, in area di rigore è solo Farias, dall'occasione per il Crotone, al gol per il Cagliari, incredibile il calcio, 1-0. Zonadiro prova, ancora segno il ragazzo del 95, 2-0 per il Cagliari con De Iola. Farias, aspetta un taglio che arriva, ma va da solo Farias, arriva pure Pisacane sul fondo a crossare per Sau che trova col sinistro, il gol del 3-0, adesso è chiusa la partita con Marco Sau che festeggia il gol del 3-0. È defilato Giannetti, rientra sul destro, vuole calciare e lo fa in maniera magnifica, il poker del Cagliari con Giannetti, tutto il tridente a segno, 4-0. 4-0, Cibus e Italia Expo. Pierluigi Pardo qui con me. Eccolo. Eccolo. Graziano, Graziano lo salutiamo. Cesari, lo salutiamo. Sai che ieri è cominciato il campionato del Cagliari in B? Sì, lo so, ho visto la partita, ho visto Massimo Castelli che ha fatto un bel lavoro. Eccolo qua, glielo puoi dire. C'è Massimo? Ciao, mister. Ciao Graziano. Sì. Ciao Massimo, complimenti, in bocca al lupo, eh. Grazie, no, grazie, non ve lo dico, grazie. Ma giocavamo a calcio contro Massimo, anche vinto una volta, ma lasciamo stare, va. Che partita era? Non possiamo dirlo. Eravamo in vacanza Santa... in luogo insieme, devo dire che Massimo è una persona eccezionale e si merita, dal punto di vista umano e sportivo, tutti i successi che andrà a conquistare, perché è veramente meraviglioso, una famiglia bellissima e lui è un uomo molto serio. Ammazza, oh, Cesare, grazie, questo è un endorsement. Grazie, neanche per vergogna, sono queste parole. Quello che penso dico. Grazie. Bene, sono contento, è molto bello. Mister, com'è la mattina dopo? Cioè, direi un discreto risveglio. Poi, se c'è un campionato che assomiglia a una maratona proprio al mondo, è quello di Serie B, quindi sì. Ovviamente da oggi in poi bisognerà mitigare gli entusiasmi. Beh, però... ieri avevamo Serse Cosmi, io voglio chiamarne uno che perde. No, assolutamente. Sì, normale, è sempre bello risvegliarsi dopo una vittoria, soprattutto quando sei a detta di tutti la favorita. E l'inizio non è mai facile, perché comunque ci sono sempre delle incognite. Infatti un po' all'inizio la squadra sentiva questa pressione, eravamo un po' contratti, poi piano piano ci siamo distesi, il gol del vantaggio ha reso le cose un po' più semplici, contro un ottimo Crotone, che per la prima mezz'ora comunque ci ha messo in difficoltà, nel senso che non ci ha dato la possibilità di creare molte occasioni, però era importante partire bene. Senti, qualche giorno fa Padovan, proprio qui a Radio 24, ha sottolineato una cosa che secondo me è vera. Secondo me lui è un po' drastico e vede male la Juve, io non la vedo male, però ha detto che l'assenza di Storari, della quale si è parlato poco, può essere un'assenza a livello di spogliatoio importante. Io ti volevo chiedere, so che non è mai facile parlare ai singoli, che cosa vi dà dal punto di vista proprio della leadership il fatto di avere un portiere, fra l'altro un ritorno a Cagliari, ma insomma un portiere di quel livello lì, anche devo dire di quella simpatia e di quella personalità all'interno dello spogliatoio. Era Padovano o Damascelli? Ma è fondamentale, soprattutto quando c'è una squadra costruita comunque per vincere, lo sappiamo tutti, vincere non è facile a nessun livello, e avere nello spogliatoio giocatori di non solo di grande esperienza ma soprattutto di carisma, che riescano a trasmettere in ogni momento, saper gestire le varie fasi di una stagione, perché non si può pensare di poterle vincere tutte, ci saranno sicuramente momenti difficili, mi auguro pochi, e in quei momenti che i giocatori di maggiore esperienza, soprattutto di carisma, riescano a tenere lo spogliatoio unito, e Marco è uno di questi. Alla Juve lui era un giocatore, anche se giocava pochissimo, ma era molto considerato, proprio perché all'interno dello spogliatoio era un grandissimo punto di riferimento. Certo. Sì, ha ragione. Però Damascelli l'altro giorno ha detto Juventus da sesto posto, mi è sembrata un'affermazione grande. Sì, beh, io non sono d'accordo, penso che la Juve abbia tutta la possibilità di... Secondo tu che ne me pensi, è la squadra mister? Più forte della Serie A. Chi è il Cagliari? Chi è il Cagliari della Serie A? Cioè chi la è il favorito? La Juventus. Chiediamo al mister. La Juventus. Mister? Sì. Chi è il Cagliari della Serie A, inteso come la favorita? Ovviamente. Ma io credo puoi che ferro, io puoi credo, fare, puoi... No, io credo che la Juve rimanga la favorita. Bisogna dare un attimino di tempo, perché ha cambiato, ha perso giocatori importanti, sia dal punto di vista proprio della qualità tecnica, ma come dicevo prima, proprio della personalità, e del carisma, esatto, giocatori a cui gli altri si affidavano completamente. Quindi bisogna dar tempo alla Juve di risistemare un attimo queste cose, che poi credo che abbia la mentalità della squadra vincente, e alla lunga questi valori vengono fuori. Poi è normale che la Roma credo sia in questo momento leggermente avanti, e poi ci saranno come sempre le milanesi, che possono quest'anno fare un campionato di assoluto valore. Mister, chi vince il derby? Bella domanda. Di solito lo vince la meno favorita. In questo momento cioè il sia il Milan. Dove ci sono gol un po' di Balotelli, di malumori rispetto a gol di Balotelli. Non lo so, questo non lo so. Mario è un giocatore imprevedibile, che però in determinate sfide diventa determinante. Sicuramente ha nel suo DNA giocate estemporanee fuori dal comune. Assolutamente. E invece la corsa su chi la fate voi in Serie B? Possiamo giocare a carte un po' scoperte? Chi sono quelle da cui guardarsi? Noi siamo stati l'unica squadra che si è esposta e ha detto apertamente quali sono i nostri obiettivi. Però credo che siamo in buona compagnia, anche se gli altri si nascondono, perché squadre come Cesena, Livorno, Pescara, Spezia, Bari, credo che abbiano organici pari al nostro. E quindi, essendo una maratona di 42 partite, poi sappiamo che la Serie B è un campionato dove le sorprese non mancano mai, quindi qualche outsider, qualche squadra non preventivabile potrebbe venire fuori, come Avellino, Salernitana, insomma squadre comunque ben costruite. È un bel campionato, devo essere sincero, ovviamente ci sono degli organici importanti, costruiti bene, piazze di grande tradizione. Mi auguro che sia un bellissimo campionato. Però si nascondono, mi è piaciuto un sacco. Grazie mister. Grazie a voi. Occhio a chi si nasconde. 800240024. Allora, Juventus, fra poco Ciro Ferrara, fra poco Ciro Ferrara. Ma Juve borsa. Le borse fra tre minuti. Attimo, ragazzi, un attimo. Borse adesso arrivano. Borse, ti occupi di borse? Che borse ti piacciono? Ah, tipo quel modello lì. Quel modello lì. Ecco, non fra poco invece abbiamo le borse valori. Piazza Affari. Fra poco Ciro Ferrara. Abbiamo telefonate? 800240024. Ma io voglio parlare di Juve Boca Junior di questa sera. E ne parliamo con il professor Ferrara. Sarà una grande serata. Fra l'altro, sono i 4 anni dalla inaugurazione del nuovo Juventus Stadium. Quindi ci sarà un clima particolare di festa. Dimmi la formazione del Boca. Dai. Beh, c'è la formazione, non te la dico perché non la so. Però ti dico che c'è Abbondanzieri, che c'è Martin Palermo. Che c'è Donné. Che insomma, ci sono giocatori che hanno fatto la storia veramente di questo club. Le famose Coppe Libertadores e Coppe Intercontinentali vinte dal Boca Juniors negli anni. C'è Caniggia, c'è allora, la maglietta... Diego Sognora, c'è Fernando Ortiz, c'è Guli, ex Milan e Inter. Allora, la maglietta più bella del calcio: Boca, Ajax, Liverpool. Sei d'accordo? Arsenal. No. Maglietta più bella del calcio? Maglietta più bella del calcio? Devo parlare per fede o devo parlare? No, che fede hai? Nero azzurro sono due colori che mi piacciono. Sei dell'Atalanta? No, l'Inter. Tutti facciamo lo stesso sabato il Pisa. No, beh, dipende. Ma ecco, allora, delle maglie dell'Inter, qual è la tua preferita degli ultimi anni? Non dirmi il gessato dell'anno scorso. No, quella classica, quella lasciamo classica. Stare. Quest'anno è abbastanza tradizionale. Sì, no? Sì, carina, sì, quella di quest'anno è ottima. È molto carina, no? Io sono sempre per l'Arsenal. Però, maglia l'Arsenal storica, maglia rossa, vedi qua. C'è la personalità anche il nostro amico in cuffia che fa cenno di sì. Anche i centinaia di visitatori fuori dal nostro il stand. Il signore dice no. No? Che maglia le piace? Maglia le piace? Proponga. Va bene, dai, borse. Spot per noi, torniamo subito. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Tutti convocati. È finita l'Islanda per la prima volta nella sua storia. Parteciperà ad un europeo. Ci vengono i brividi, l'inno dell'Islanda che per la prima volta va a un europeo. Cibus Italia Expo. Eccoci. Pierluigi Pardo. Sono andato in onda? Ti posso chiamare alle tre? Ti posso... perché mi hai chiuso il microfono. Che ha scritto Amore, Amore fuori, fuori gioco. Il libro della professoressa Tambini è un libro nel quale si parla essenzialmente di fuori gioco. Di che cosa? Le donne vengono. Tra l'altro, ma qui c'è una donna che assomiglia alla Tambini. Parla pure tu, perché c'è una ragazza. Giulia. Giulia, sei la sorella? Ecco. Ti piace questo libro? L'hai letto? Sì, parla col, ecco, col microfono. Col ecco. Microfono? Ecco. Ti è piaciuto? Sì. Ma che è questa? Ma ci togliete questa musica? Ma che roba è? È l'inno dell'Islanda. No, è bellissimo, però dico meriterebbe più. Senso e pennica. Dai, dai, cioè bellissimo, l'inno è bellissimo, però siamo nel primo pomeriggio. Quindi è un libro nel quale si parla dell'amore e del fuorigioco. È più difficile, più brava nell'amore o nel fuorigioco? È più difficile. Dai. Questo non dovrei dirlo io. Pierluigi. Ah, può sembrare brutta. No, nel senso, ma no, dai. Mamma mia, siete dei maniaci. Ma no, dico, c'hai è un maniaco. C'hai capito di più di amore o di fuorigioco nella tua vita? Sicuramente di fuorigioco. È quello come volevo tutti, dire. No, come tutti puoi noi. Pensare subito alle porcate. Invece io intendevo dire le dinamiche amorose. Amorose in senso lato, nel senso mentale, sentimentale. È tutto un parallelismo. Siamo rimasti solo io e Valerio, il nostro fonico. Fonico, sì. Scusate, non volevo essere. Allora andiamo con ordine. Filippo, sì. Maria Ricci, buongiorno. Stiamo aspettando Ciro Ferrara. Io voglio parlare essenzialmente di Juventus Boca Junior di questa sera, perché è l'unica cosa che mi interessa. Beh, insomma, c'è ciao, il basket Phil. Stasera. Ciao Phil. Buon pomeriggio. Ciao. Com'è? Amore fuori gioco? Amore e fuori gioco, sì. Elena Tambini. Aspetta, non vedo solo. Aspetta. Manuale sentimental trattino sportivo a uso del gentil sesso. Ragazzi, ciao. Ciao. Io vado a casa. Ha fatto questa intervista dicendo che tutta la loro prima. Il primo appuntamento, lui ha parlato solo del fuori gioco. Stanno ancora insieme, hanno fatto una bella famiglia, quindi un bel esempio. Ci sta, ma Pantaleo Corvino l'altro giorno ci ha raccontato il suo viaggio di nozze vissuto in Belgio, una delle prime notti di nozze, per andare a vedere una partita che era, credo, Charleroi Bruges. E quindi voglio dire, i due piani si mescolano in questo best seller di Elena Tambini, che ha già venduto quante copie. Io chiedo, è appena uscito. Una Coppa d'Africa, Ah, beh, fantastico. Ragazzi, voi siete malati. Posso dire? No, noi siamo oltre qua. Però è vero, perché la signora Maria Filippa Riccia, cioè la moglie che salutiamo ovviamente, in realtà è fotografa di calcio, no? Quindi... Però noi eravamo lì in Sudafrica perché c'era la Coppa d'Africa. Lei era venuta ad accompagnarmi tanti anni fa. E prima di un Angola Capo Verde le ho chiesto la mano. Sì, l'ho visto anch'io. C'ero anch'io. Tra l'altro, il romanticismo di Angola Capo Verde era un derby importante. Che non è chi vero che Capo Verde non era qualificato, l'unica cosa da dire è che quel di Durban è successo così nel lontano 96. Per cui allora fuori gioco e chi ha vinto? Angola Capo Verde, chi ha vinto? No, mi ricordo solo ho citato questa cosa dall'Angola perché uscendo dal ristorante incontrammo questo Aligno, si chiamava, che era l'allenatore dell'Angola, e io gli sorrisi perché ero un uomo, l'uomo più felice del mondo, e poi non mi ricordo poi come andò a finire fantastico, la partita, fantastico. Perché poi era il giorno dopo, insomma, però è così, questa di Corvino pure mi piace, questo viaggio di notte a vedere Charleroi a Bruges. Sì. Io devo dire che nella mia vita le fidanzate e anche mia moglie, quelle con le quali sono stato mentre facevo il telecronista, i primi tempi venivano a vedere tutte le partite, facevano trasferte di 500 km, poi dopo è stato un po' di tempo. Come dicono a Bologna, l'hanno data su. Maciniamo chilometri per niente, non abbiamo... che hai spinto, che dice il nostro Benjamin? Senti, ma Phil, pronostico Italia-Spagna basket stasera. Secondo me ne prendiamo Spagna. 20. Ne prendiamo 20. Basket. Però come già dissi altre volte, io sono fermo ai tempi di Aldo Giordani, la mano torrida, per cui non conosco così bene il basket moderno. Però oggi, per esempio, sulle copertine dei quattro in crescita, vediamo un po'. Esatto, dico sulle copertine dei quattro quotidiani sportivi spagnoli, due di Barcellona e due di Madrid, che, qual è la proporzione calcio-basket? Perché per esempio sappiamo che in Francia c'è l'Equipe, l'unico quotidiano sportivo, che se c'è da cominciare con l'atletica o col rugby o col tennis non si fa problemi, no, in Italia è un po' diverso. Qui fanno una grande fatica, allora i due catalani proprio una fatica tremenda, perché comunque poi si entra in tema di nazionale, lì non si sa mai come si devono mettere, se la nazionale sì o la nazionale no. Però è chiaro, la nazionale poi ci sono i catalani, allora magari qualcuno sì, insomma, già lì entriamo in un tema mezzo politico complicato, comunque fanno fatica a staccarsi dal Barça. Sì. As è molto calcistico, Marca invece a volte riesce a staccarsi, prova, a essere un pochino più polideportivo, come dicono qua, e quindi se c'è qualcosa di grosso fanno anche sul basket, anche recentemente hanno fatto delle cose anche in prima pagina. Capito. Stasera ce ne danno 20 e domani in prima pagina. Posso citare Sereno. Il dilemma se esista l'amicizia tra uomo e donna senza implicazioni sessuali difficilmente sarà risolto. È certo invece che non esiste il gioco del calcio senza scontro fisico. Da Amore fuori gioco di Elena Tambini. Editore Cairo, editore sì. Cairo. Salutiamo il presidente del Torino, in testa alla classifica, l'editore in testa alla classifica. Ciro Ferrara, Ciro, come va? Ferrara. Ciro, ciao, papà. Ciro. Tutto bene? Ciao, sì, tutto bene, grazie. Per adesso tutto bene. Tutto a posto, tutto a posto. Questa sera alle 23 vediamo. Ecco, beh, appunto. Dai, raccontaci, perché è una cosa bellissima quella di stasera, è una iniziativa benefica, quindi credo piaccia a tutti, indipendentemente dalla fede calcistica di chi ci sta ascoltando, quindi complimenti a Juve e Boca da questo punto di vista, e anche una serata particolare perché sono i 4 anni dello Juventus Stadium. Da dove cominciamo? Non so, dimmi tu, io sono un po' in tensione per questa partita, devo dire la verità. Però è anche un modo per ritrovare vecchi compagni di squadra, vecchi compagni di squadra, e rivivere alcuni momenti. Ieri sera, per esempio, eravamo tutti quanti a cena insieme, e ancora stamattina abbiamo fatto tutti quanti le visite mediche, giustamente, no? Ci vogliono controllare prima di mandarci allo sbaraglio in mezzo al campo, e però insomma è un modo per ritrovarci, per condividere ancora quelle che sono state tantissime emozioni vissute insieme. E poi ovviamente la cosa più importante è sicuramente lo scopo benefico, è un modo insomma direi anche bello quello di pensare a dei giocatori che hanno fatto la storia di una società e che possono ritrovarsi ancora una volta. Facciamo un po' una lista. Scusa? La formazione qual è? Allora, in porta Peruzzi e Tacconi, no? A turno. Sì, allora, il nostro mister è Pessotto, il quale è molto sotto pressione in questo momento, perché è tutti chiaro. Quanti ovviamente vogliono giocare, quindi già gli abbiamo detto, io almeno e Montero, che se non siamo titolari lui rischia immediatamente il posto. Certo. Quindi cominciamo da qui, ma come difensore siamo io, Paolo, Moreno Torricelli, c'è Birindelli, e poi sai che sono finiti i giocatori, quindi la linea di pensa. Ah no, c'è Carrera, Massimo Carrera, c'è Mirkovic, e poi credo come difensori basta, forse, non lo so, no, forse dimentico qualcheduno. Poi c'è a metà campo siamo messi abbastanza bene, devo dire la verità, che speriamo in Nedved, che sia sempre nelle migliori condizioni. Hai dei dubbi? No, assolutamente no, perché esaurito com'è, va a correre tutti i giorni. Si mantiene, è quello che credo più in forma di tutti insieme a Edgar Davids. Sicuramente puntiamo tantissimo su di loro. Per Edgar ci vorrà un pallone solo per lui, perché lui prende il pallone e non lo dà a nessuno. Certo. E poi c'è Bonini, c'è Bonetti, c'è magari dimentico, sicuramente dimentico qualcuno. Vabbè, ma Pierluigi ti ha fatto un'imboscata. Camoranesi. Guarda, se vuoi, la lista, sto leggendo, la lista. Li sto leggendo su internet perché li dimentico. Ah, tra i difensori c'è anche De Agostini. Sì. Aspetta, sì, io qua sì, c'ho altra cosa. C'ho già il file che ho mandato tra l'altro a Benjamin da stampare il file, però dici se stai qui con tutti i dati dei giocatori. Allora abbiamo Abbondanzieri, Donnè, Kalenikov a metà campo, Galia, sì, sì, sì. E poi Gigi De Agostini, contiamo... l'hai detto, Carrera, Birindelli, Mirkovic, Montero, Dimash, e poi sì, Angelo Dimash, Alessio, sì, Bonini, Camoranesi, Davids, Galia, Tavola, Nedved, Amoruso, Ravanelli, Schillaci, Trezeguet, eccezionale, incredibile, incredibile. Ma comunque ti dico una cosa, che ieri abbiamo fatto anche un allenamento, mi sembra eccessivo, cioè abbiamo fatto praticamente torella e partitina senza riscaldamento. Immagino. Ci siamo messi a fare il torello e la partitina, e dopo due minuti durante la partitina è uscito già Totò Schillaci che aveva un fastidio al polpaccio. De Agostini ancora, pure lui aveva qualche problemino fisico, quindi mi sa che se arriviamo a 11 stasera è un miracolo. Ecco, adesso tu rimani lì un secondo perché c'è il traffico, devi sentire tutte le informazioni per arrivare allo Juventus Stadium stasera. Viaggio, traffico. È sicuro? 100%? Tutti convocati. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta... Tutti convocati. Allora, io ho clamorosamente perso il conto, per fortuna c'è il mio fratello di microfono Pierluigi Pardo qui con me. Sì. Abbiamo Ciro Ferrara, sì. Abbiamo Filippo Maria Ricci, c'è abbiamo Elena Tambini, c'è fuori gioco. Abbiamo anche la sorella, abbiamo Giulia, che sì, non parla però di qualcosa. No. Ecco, non è che non parla. Eccola qua. Allora, io ti voglio... piaceva Ciro Ferrara, da calciatore? Quanti anni hai, Giulia? Io 19. Allora, te lo ricordi, il grande attaccante? Ciao. Che ruolo era? Un grande centravanti. Ti prendono in giro. Ho notato. Che ruolo era? Comunque, attaccante. No, attaccante, attaccante, portiere. Sì, sì. Faceva il portiere. Leggermente, senti, Ciro, prima di leggermente sull'esterno. No, ma magari si ricorda della pubblicità della Danone. Sì. Che tu continui. Senti, ho due domande veloci per te, proprio veloci alla Ligabue. In tre domande, queste sono due. Chi prende l'Inter? Molto semplice. Si riprende il Napoli e si riprende la Juve? Queste due domande, scegli da quale partire. Direi che entrambe hanno le potenzialità assolutamente per riprendersi. Io credo che insomma siano squadre, la Juventus sicuramente ancora secondo me la squadra da battere. Per quello che riguarda il Napoli, credo che sia stata importantissima la riconferma un po' di quei giocatori importanti per questa squadra, e mi riferisco in modo particolare a Higuain e il ritorno di Reina. È chiaro che insomma, come si dice in questi momenti, c'è bisogno che si dia il tempo a Sarri di lavorare, ma il tempo a disposizione qui in Italia non te lo danno, e quindi c'è bisogno che il Napoli ritorni subito a fare dei risultati. Ha un calendario direi abbastanza tosto in questi 22 giorni, ha 7 partite veramente dure, perché credo che debba affrontare il Milan, la Juve, la Lazio se non sbaglio, oltre all'impegno in Europa League, e quindi sicuramente questo è un mese importantissimo per il Napoli, e il tifoso del Napoli ha voglia di ritornare al successo, o quantomeno ha voglia di lottare per il vertice. Quindi è questa secondo me l'aspirazione. Tempo e l'amalgama non si comprano al supermercato. Ciao Ciro, grazie. No. Bocca al lupo stasera. Ci vediamo dopo. Saluti, ci vediamo dopo. Commento io, Ciro. La commento io la partita, Ciro. Stai tranquillo. Mi raccomando. E ancora in ritardo Ferrara. un altro brutto intervento di Ferrara, davvero incredibile vedere come tutto questo talento si sia consumato dagli anni. No, aspetta che ancora in ritardo Ciro Ferrara, a vuoto vedete qui, impietoso il replay della regia, vedete Caniggia che fa quello che vuole. Ma dai. Perfetto, no, stavo facendo delle prove. Volevo, tranquillo, no, Ciro, volevo. Tranquillo. Non ti darò occasione per parlare in questa maniera. Stai in una botte di ferro. Babbo, c'è ancora Filippo Maria Ricci, eh? Ciao, Phil. Ricci. Phil. Ma ci sono le leggende. L'altro giorno abbiamo commentato una partita delle leggende del Real Madrid in Spagna. Questa cosa forse è nata ancora prima che da noi, sempre, certo, con intenti benefici. Sì, sì, qua le leyendas qua, figurati, qua vanno, eh. Sì, sì, Real Madrid è molto attivo, Barcellona meno. Beh, Real Madrid ogni anno fa una partita qua, una specie di partita del cuore, il Corazon Classic, spesso invita squadre italiane. No, no, qua se la sì, vanno bene. Se la divertono, Zidane, sempre in grande forma. E gli altri amici di Zidane contro amici di Ronaldo. No, no, ma sono, devo dire la verità, sono cose molto belle, fra l'altro sono cose che anche da un punto di vista poi di riscontri pratici, scherzi, fanno tantissimo, la partita del cuore ogni anno, quella di Rai 1, fa ascolti eccezionali. Ma fanno più incassi di quelli veri. Sì, sì, no, ma assolutamente. Quindi complimenti a tutti. E poi stasera, insomma, sappiamo che c'è un progetto dedicato all'Africa. E quindi, insomma, complimenti doppi. L'Africa, dove lo ricordiamo, per gli appassionati di gossip, Filippo Chiese. No, la mano. Chiese, dopo moglie Benedetta. Angola, la mano. La mano. Angola, sì, capo. No, Benedetta. Anzi, saluto. Ma che Boca chi gioca? Scusa, però non me l'avete detto? Gioca Bonanzieri, c'è Caniggia, Martin Palermo. Beh, insomma, c'è della qualità, eh. Vuoi la formazione? Devo riguardare la mail? Favorito, quindi favorito il Boca. Senti, ma favorito il Boca, ma secondo te le tre magliette più belle del mondo? Sì, Filippo. Io dico Boca. Arsenal, le altre due, su. No. Ajax e Liverpool. Facciamo un sondaggino, poi per i nostri amici ascoltatori, qualcuno ci ha scritto un paio di Sampdoria che mi sono arrivati, no, perché tu sei tifoso dell'Arsenal e Renato Tambini è tifoso, però la maglia mi piace, le piace il nero azzurro dell'Atalanta. Filippo. Filippo, le tre maglie più belle, Filippo, del calcio. È andato via Filippo, stato bello. A me piacciono anche molto le linee diagonali, tipo il Perù dell'82, il Peñarol, quella del Torino dell'anno scorso. Bellissimo. Con il sondaggino 800240024, numero adesso 3. Ci scateniamo, ascoltatori a profusione, eh? Salutiamo la Tambini, o vuoi stare qui tutto il giorno a parlarci di amore fuori gioco? No, vi lascio sì, però con delle parole a la sorella, c'è un passaggio sulla sorella. Sì, ha un vero ruolo d'arbitro, non vede l'allenamento, non sa quasi nulla dell'altra squadra perché lei sia partita vera e propria. Quando va nelle trasmissioni radiofoniche sta lì zitta, ferma e non dice nulla. Grazie alle Tambini, fra poco prego, ripartiamo. Ciao a tutti. Però ti lascio, ma lasciato male. Posso dire. Vado a mangiare. Ciao, mister. Tutti convocati. Digital Radio. Flash. Ciao, sono Emma. Ho sentito dire che la Digital Radio è multimediale. È vero? Certo, con le trasmissioni in digitale, la radio acquista una nuova dimensione. Oltre all'audio in qualità perfetta, puoi ricevere sulla tua radio immagini, testi e video. Lo sapevi? E allora muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio, il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Il segnale orario vi è offerto da Formaggio Gran Moravia, l'unico con l'etichetta multimediale della filiera ecosostenibile. Ciao, sono Enrico Ruggeri, è partita la seconda serie del Falco e il Gabbiano. Tante nuove storie di vite straordinarie. Gio Petrosino, che pagò con la vita la sua guerra alla mafia. La voce e l'anima meravigliosa di Giuni Russo. Arthur Ashe, che grazie al tennis vinse i pregiudizi razziali. Le sorelle Giussani, due ragazze della Milano Bene che hanno inventato Diabolik. E la incredibile e struggente storia di Bob Geldof, l'uomo che con il rock ha ridato fiducia e dignità alle speranze di un continente. Il Falco e il Gabbiano, vi aspetto dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio 24. Tutti convocati. E ripeto, in non abbattersi, se invece possiamo prendere una legnata, come ha preso la Turchia ieri, perché ci sta con la Spagna, ma poi dopo invece probabilmente quella sarà la partita decisiva, a rimanere in corsa il giorno dopo con la Germania, perché bisogna ricordarsi di aver presente anche questo, perché forse per caratteristiche le ultime due possiamo giocarcele di più sulla carta. L'Italia dotata di un numero quasi unico di giocatori forti nell'uno contro uno, con capacità per tirare, per mettere la palla a terra, con una perimetralità veramente complessa per una squadra come la nostra, che cerca di più possibile di tenere in campo i lunghi. Vediamo nella prossima partita, però non c'è dubbio che avere in campo 5 giocatori che possono tirare da 3 punti, giocare uno contro uno, metterla per terra, correre, andare in balzo attacco in movimento, è molto complesso, almeno per una squadra con la struttura della nostra. Mi piace tantissimo per Gigi, per il capitano, e purtroppo sono cose che capitano, non dovrebbero capitare soprattutto a noi, però mi spiace, ci spiace, e sicuramente sarà un motivo in più per far bene. Allora, abbiamo sentito Pianigiani, Sergio Roberto Scariolo. Ormai sì, parla più spagnolo che signor, italiano. Signor Scariolo. Scariolo. 800240024. Sì, adesso facciamo una mezz'ora. Daniele da Torino, Nicolò dalla provincia di Trapani sono già in linea. Questa sera scanaliamo tra Juve, Boca, Italia-Spagna alle 21. Vi chiaro, ne prendiamo 20. Ma perché devi essere così negativo? Allora, scommetto con tutti gli ascoltatori. La Spagna è sempre favorita, certo. Spagna è sempre favorita. Io li ho visti l'altro giorno distruggere la Turchia. Sì. Sono una squadra impressionante. Però avevano pure perso con la Serbia, no? Sì, ma sono una squadra impressionante. Ne prendiamo 20 e scommetto con tutti gli ascoltatori. 800240024. Daniele, buongiorno. Buongiorno. Daniele? Sì. Io volevo intervenire in merito alla maglietta più bella, secondo me, in questo momento è quella, la terza del Torino di quest'anno, che sì, quella è con blu, tutti con tutti i nomi dei sì, giocatori, sì, molto bella, e secondo me è proprio azzeccata. Invece la più brutta è sempre la seconda del Barcellona, con quei colori fluo giallo rossi. No, sì, di arancioni, a me piace, so che sono da solo, a me piace quella a strisce orizzontali del Barcellona, a me piacciono le maglie a strisce orizzontali, piace la maglia del Celtic, mi piace da morire, ecco, vedi, mi sono dimenticato, la seconda maglia del Newcastle della stagione 95-96, che è quella, quella claret and blue, quindi è un blu e un amaranto, è un amaranto e un blu scuro con il colletto alla coreana, beige, so che sembra la supercazzola, però non è, giuro Giorgio che è De Luca a pubblicarla su sì, 95-96, adesso lo cerco anch'io. Dai. Seconda maglia del Newcastle, che era la maglia bianconera, quella classica come prima maglia, ma aveva la seconda blu e rossa a strisce orizzontali. Tu c'eri Milan-Barcellona quando il Barcellona si presentò a San Siro con quella divisa, sì, credo, in anche l'averla commentata, 1-1? L'hai commentata. O 2-2, 1-1 mi pare. 2-2. Parliamo del 2003 anni fa, sì, era l'inizio di Tiki Taka, insomma era 2 anni fa, era ottobre novembre 2013. Sì. No, ma quella è brutta, onestamente, quella maglia lì è brutta. Guarda che l'hanno trovata. Certo, su Inter si trova tutto. No, però non c'è qua. Newcastle no, 95-96. Vabbè, ma adesso stiamo facendo radio, quindi è inutile che eccola qua. Questa qua. Valerio, è stupenda. Sì, ecco, Nicolò, cercatela su provincia su di Trapani, buongiorno. Ciao Nicolò. Sì, salve, buongiorno. Io no, volevo fare un passo indietro ieri, signor Genta, che lei è intervenuto a sesto giorno, intorno all'1.30 circa, sì, 30, sì, parlando di Balotelli, sì, e della balotellata per la velocità. Sì. Secondo ritiro me della patente, non me ne sono accorto. E dicendo delle inesattezze, peraltro, perché per superare il limite di velocità non viene arrestato nessuno in Italia, quindi non so, lei ha detto a noi ci avrebbero arrestati. È una cazzata, diciamo, fenomenale. Una cazzata, sì, però andava a 103 all'ora, limite 50, non me ne sono accorto con la Lamborghini. Quindi sì, ma non l'avrebbe arrestato neanche a lei, neanche a me, se avesse Non è questione di dire una cazzata. Mi scusi, Nicolò. Voglio dire, vabbè, cioè, usciamo di qua, andiamo a 103 all'ora, ci fermano e ci ritirano la patente. No, fra l'altro, Genta, questo è proprio a prova di bomba, è uno dei più balotelliani di tutto il mondo. No, sì. Ma la sostanza, secondo me, Nicolò, è che comunque chiaramente è un errore, un ennesimo errore che si aggiunge alla casistica fuori dal campo di un giocatore tanto chiacchierato, per cui sarebbe bello che per un certo periodo di tempo si riuscisse lui a mettere nelle condizioni di non dare adito ai media di parlare di questo. È ovvio che nel momento nel quale Balotelli, con tutti i dubbi che ci sono sul suo recupero più che tecnico, psicologico, è chiaro che se si presenta così è ovvio che i giornali ne parlino, ma non c'è da discutere, non è cattiveria, assolutamente. Poi sull'inesattezza posso essere d'accordo con lei. Assolutamente. Ma Favignana, come, che tempo c'è oggi lì? Favignana, Marettimo? Il tempo Favignana è un po' aperto, comunque c'è un mare caldo che è una favola. Bello. Levanzo, Scirocco. Levanzo. Vento di Scirocco. Fatto il dribbling fra le meduse quest'anno a Levanzo, però è stato un bel momento. Sì. No, veramente, giuro, sono uscito un attimo in porto, tra l'altro in porto a Levanzo c'è un'acqua pazzesca, non è un porto. E hai fatto il dribbling tra le meduse. È la più piccola delle tre Egadi. E sono uscito, ho visto una, poi ho girato, c'erano altre quattro, poi ho visto là, e sai quando proprio dici, e che dobbiamo fare? Mare caldo. Se siamo dati a puntare amiche meduse, però allora, le ho saltate. Faccio un altro pronostico. Sì. Il Milan vince il derby 2-1, gol di Balotelli. Adesso qua siamo. Ti portiamo la sfera di cristallo, hotel. Ma è vero che hai beccato. Ragazzi, abbiamo beccato tutti e due, Italia Bulgaria 1-0. 8-0-0-24-0-0-24. Vi aspetto tutti lunedì. Va bene. Luigi Milano, buongiorno. Buongiorno a tutti. Quanto va? Sì, Luigi, sì, le piace questa musica così un po' da rave che ha messo Valerio? Valerio, qua è pubblico il pomeriggio, ma che roba metti? Cibus e Italia. Sì, prego Luigi. Expo, siamo qui tutta settimana. E diamo anche le magliette. Sì, prego Luigi, pronto? Andiamo. Sì, mi riferivo al, diciamo, a Coman, al prestito della Juve verso il Bayern. È praticamente lo stesso che ha fatto il Real Madrid con Morata alla Juve. Non ho capito. In che senso? Cioè, allora, il sistema del prestito che ha fatto Coman dalla Juve al Bayern è praticamente lo stesso di quello che ha fatto il Real Madrid con Morata alla Juve. Con Morata c'era un diritto di riscatto, no? Tecnicamente questo è un giocatore che sicuramente ha abbagliato, dato una sensazione di grandissima forza. Io ho commentato la sua prima partita vera, nella quale poi abbiamo scoperto a fine partita che aveva 38 e mezzo di febbre, che era Chievo-Juve, prima giocata l'anno scorso, e nella quale fece cose abbaglianti. Poi francamente dirti che tutto questo interesse da parte di un grandissimo club come il Bayern sia in qualche modo motivato per quello che si è visto fino ad oggi, insomma, è una scommessa del Bayern, ed è la voglia della Juve evidentemente di monetizzare, di fare razionalità, di avere un approccio razionale al mercato di quest'anno. Quindi insomma, secondo me non è un errore. Gli errori secondo me sono altri. Io non ho capito la cosa di Llorente, al di là della gratitudine umana e della simpatia per un ragazzo che si è comportato benissimo alla Juve, però insomma Llorente secondo me poteva trovare un mercato di tipo diverso. Ma certo, non capisco, ma perché rescindere il contratto? Non lo so. È vero pure che la Juve l'ha presa a parametro zero, cioè ieri leggevo le dichiarazioni, prendeva anche molti soldi Pier. Sì, leggevo le dichiarazioni del presidente del Boca che ringraziava la Juve a proposito di Tevez, e secondo me è bello che ci sia ancora gratitudine e fair play. A Tevez sarà concessa la possibilità di tornare in patria per una scelta di vita, e la Juve si è accontentata di questi giovani di belle speranze, ma sicuramente ha rinunciato a monetizzare, e fa onore secondo me tutto questo alla Juve. Detto questo, cioè, il confine, no, fra l'essere signori e l'essere un po' sprovveduti certe volte è un po' labile. Io Llorente avrei provato a monetizzarlo in maniera diversa, però da qua siamo bravi tutti, per carità, insomma. Ma lui semplicemente guadagnava molti soldi. È incomprensibile come la Juventus abbia rescisso il contratto e l'abbia regalato. Cioè, è nobile perché, perché sì, Ioretta voglia andare lì, e quindi quello che vuoi. Però, in effetti, quell'operazione lì, qualche dubbio me lo dà. Il resto delle operazioni della Juve di quest'anno, francamente, invece, mi piace in prospettiva, soprattutto perché comunque alla fine mi sembra che la Juve sia arrivata alla fine di un ciclo vincente che ha culminato con la finale di Champions League dell'anno scorso e comunque con gli scudetti in fila, e inevitabilmente doveva provare a ringiovanirsi, e secondo me alcuni acquisti vanno pienamente in quella direzione. Ma come la vedi, come li vedi tutte le vedove di Pirlo del passato? È ovvio che Pirlo si porti dietro delle vedove, forse lo so anch'io una vedova di Pirlo, nel senso che comunque ma oggi leggevo per esempio questi articoli appunto su Pirlo, che in questo momento è in difficoltà, improvvisamente è in ribasso. Adesso la moda del giorno, chiaramente, dopo averlo visto in panchina, è quello di dire che sia finita un'epoca, e probabilmente dal punto di vista nazionale è anche sano che sia così, perché se c'è un reparto dove noi abbiamo un giocatore di enorme prospettiva è proprio quello. E Verratti, francamente, l'idea che Verratti ancora abbia bisogno di dover dimostrare delle cose e debba sentirsi addosso la pressione di un totem meraviglioso come Pirlo, potrebbe essere un problema per lui. Quindi da questo punto di vista, secondo me, ci sta il ragionamento. Però insomma, è chiaro che perdere Pirlo, banalmente, la Juve ha perso Pirlo, Vidal, Tevez, cioè ha perso tre giocatori straordinari oggi, straordinari l'anno scorso. Era il momento. Era il momento. Ma la Juve infatti ha fatto bene, ci sta che ci sono dei momenti della vita che devi rinnovare, e in questo rinnovarti c'è un margine di rischio, perché non è detto che Dybala il primo anno o Mangio che possano fare come Tevez, e Hernanes possa fare come Pirlo. Io non riesco a sopportare quelli che adesso dicono Allegri è da licenziare, Allegri ha sbagliato tutto, Allegri ha vissuto sull'eredità di Conte. Allegri ha vinto due scudetti in Italia, uno con il Milan e uno con la Juve, non sono in molti alle è arrivato in finale di Champions League. Ha vinto la Coppa Italia, che la Juve cosa che Conte non ha fatto. Insomma, poi ti ripeto, a Conte deve essere riconosciuto il merito di aver costruito questa squadra, ed è un merito enorme, perché è chiaro che è il merito, no, è la creazione di qualcosa di completamente diverso rispetto a prima. Però che Allegri l'anno scorso abbia fatto benissimo e che non si possa adesso liquidare perché ha perso due partite con la cosa, ha fatto benissimo perché c'era Conte l'anno prima, mi sembra evidente. Abbiamo altro? Abbiamo Luca da Genova. Luca. Ciao ragazzi. Qual è la maglia più bella? Sai perché te lo chiedo? Perché Genoa e Samp hanno delle maglie pazzesche storicamente, no? Sono delle maglie. Qual è la maglia più bella, Luca? Quella dell'Entella? Qual è la maglia più bella? Sandoria, no? Ragazzi, ognuno ha le sue idee. Prego. Io sono malato di Sandoria, però sportivo, molto sportivo. Mi auguro che il Genoa mi finisca come il Parma. Sono sportivo. Sì, questo l'ho sentito un sacco di volte. Io sono tifoso, ma sono sportivo. L'ho sentito un sacco di volte. Pierluigi Pardo più di me. Di vedere il Genoa giocare con i preti, tipo con le suore in quei campetti. Vabbè, dai, ma il derby è imbattibile, su, è la cosa più bella. È vero. Allora, guarda che Genova, in 30 secondi, Genova, che è una città meravigliosa per mille motivi, dal punto di vista calcistico è una città pazzesca, perché sono poche le città relativamente piccole come Genova ad avere però due grandi tifoserie straordinarie, appassionate, due squadre in una città di questa dimensione è abbastanza raro, quindi secondo me il derby è una cosa magica. Prego. Chiamo un genoano e dice che quelli da Sampdoria sono quelli di San Pier d'Arena. Sì, o i ciclisti, i bimbi, i ciclisti, vabbè, dai. Insomma, è la bellezza del derby. Prego. Sì, ce l'hai un minuto. Ti racconto quella cosa di Corvino che ha detto poi Filippo Maria Ricci negli stadi quando partiva per il viaggio di nozze. E io ho passato il primo anno anniversario con la mia fidanzata a Udine. Che c'è? Udinese, a fare che? Quale? Quale Udinese Samp? Sì, a vedere Udinese Sampdoria. Era maggio 2005. Ma che andiamo a cena? Ci ho detto no, invece era gioia, andiamo a Udine. Ci portiamo il panino, andiamo in cantinata. Ho visto Udinese Sampdoria il primo anno. Risultato? Risultato? 1-1 era finita. 1-1. Il matrimonio gol? Là? Gol di chi? Gol era. Mi sfugge. Allora. Mi affamo. Mi sembra Pinzi per loro. E Flacchi, va bene. Ok. Bene. Grazie. Va bene. grazie. Una testimonianza importante che ci... Piero Augusto Stagi, buongiorno. Oh, il professore, buongiorno. Ciao, buon pomeriggio. Siamo depressi. Perso la maglia. Abbiamo perso la maglia di Aru. Stasera perdiamo una partita contro la Spagna. Mamma mia, oh. Mettiamo, sì, ma infatti. Ma dai, mettiamo la canottiera, dai, un po' d'ottimismo. Fa ancora caldo. Fa ancora caldo. E quindi? Quindi la prendiamo domani, con calma. La prendiamo a cronometro, a cronometro, a cronometro. Ma stai scherzando? No, non sto scherzando. Domani Fabio Aru stupirà il mondo. Non vince la crono, sia ben chiaro. La vincerà Tom Dumoulin. Questo è, chi- sì. è chiarissimo. Però Aru si difenderà egregiamente. Andrà molto meglio di Joaquin Rodriguez e cercherà di contenere il divario tra lui, Dumoulin e Maika, perché nessuno parla di Rafa Maika, che è pericolosissimo, questo polacco che è in salita, è durissimo a staccarlo, e a cronometro se la cava niente male. E una vuelta, certo, sarebbe meglio da tifosissimi italiani, io la volevo molto più serena e tranquilla, con una bella botta di Fabio e un minutino di vantaggio su tutti, e avremmo fatto... ultima settimana di vacanza verso Madrid. Invece così non è, invece a livello sportivo è estremamente elettrizzante, incerta, emozionante. Credo che domani ripartirà un'altra vuelta prima di ancora un paio di tappe molto molto significative. Ricordiamoci che la penultima tappa prima di Madrid sarà una tappa da capogiro, veramente durissima, dove lì si giocherà a tutti gli effetti sui secondi questa vuelta di Spagna. Vabbè, tanto oggi siamo esposti, quindi almeno io l'ho fatto, ho detto la Spagna stasera batte l'Italia di 20, ho detto il Milan vince il derby 2-1 e Stagi dice che domani Aru riprende la maglia a cronometro. Allora mi dicono, però non devi dire Stagi dice ridi. No, l'hai detto tu, L'hai detto tu, Pier, no, tu però ridi. Io l'ho detto, esatto, ma tu ridi. Esatto. Ma no, ma ragazzo, è ilare. No, volevo dirvi che arrivano. Qual è la tua maglia preferita? Adesso abbiamo parlato delle maglie da calcio oggi, ma la maglia più bella invece del ciclismo qual è? La maglia gialla, rosa, la maglia ciclamino. Contemporanea o della storia? Della storia, tutto, ogni epoca, all time. Di ogni quella epoca. Quella della chic bianca e nera. A me piaceva molto la maglia, quella di Felice Gimondi, della Salvarani, bianco-azzurra. Sì. La bellissima maglia d'accordo. Degli anni 70. Degli anni 70, ovviamente di lana, no? Ovviamente di lana pesante. Ovviamente di lana. Una maglia con la quale Felice Gimondi vinse una bellissima Parigi-Roubaix nel 1966. Quindi quella bianca-azzurra, e poi c'è quella della Chic, c'è quella della Gis di Moser, che io non posso dimenticare. La Gis, Moser e anche Saronni, perché tutti e due hanno corso con la maglia della Gis. Vedi che però, anche il ciclismo di Sibiglia, presidente della Vellina. Allora, Davis Rosso scrive: Celtic tutta la vita, senza numeri sulla schiena. Roberto Corti che ci dice che la maglia del Perù è fantastica, quella della Samp lo stesso. Gianni Graziani che ci scrive che le maglie a strisce trasversali hanno un fascino particolare, ce ne manda un po'. Cioè, il tema delle maglie è sempre straordinario, eh? Benjamin, tu qual è la tua maglia preferita? Che ne so, l'Inghilterra di Kevin Keegan, del signor Keegan? No, non lo so, non lo so, però lo so. Era bellissima quella dell'Inghilterra, tutta bianca. A me piaceva molto quella dell'Ajax, mi piace molto quella dell'Ajax. Certo. Ajax, Boca, Liverpool, Newcastle 95-96, maglia della trasferta. Ma sono borderline, borderline. Lo so, Arsenal allora mi tengo l'Arsenal. Perché sei tifoso? Ma non sono tifoso, però la maglia mi frega di meno. Però la maglia mi piace, mi è sempre piaciuta, e quando ero bambino ne ho comprata una. I miei erano abbastanza preoccupati, e perché avevo 4 anni e ho comprato la maglia dell'Arsenal. Quella di Liam Brady, numero 6. Per non parlare di quella gialla e blu, gialla e blu col cannone, Valerio, ma quante ne sai, grandissimo. Finale 1979, Arsenal Manchester United, FA Cup. What are we talking about, guys? Ciao Piero, Augusto Stagi, ciao. questa musica vuol dire che siamo. Ciao Pier, allora, bocca al lupo, allora, per la sera la guardiamo, guardiamo Italia-Spagna di basket, guardiamo Juventus Boca Junior, sì. Legend raccontata per Luigi Pardo. Guardate quello che volete essenzialmente, insomma, scanaliamo. Scanalate, cioè, c'è e grande poi... libertà, però insomma è una bella serata di sport, di vari sport, e poi noi ci troviamo domani qui a tutti convocati. Ma non vieni domani qui a... Domani non vengo, Expo. Domani non vengo, ti però molli da solo. Ti mollo solo, però... Tanto sai che il mio telefono è una garanzia. Quindi non ci sono problemi. Tutto a posto. Ragazzi, le magliette. Le magliette. Mandateci su, scriveteci su Facebook, Twitter, così Instagram, abbiamo... Instagram pure, perché Instagram, le maglie, figure, Instagram. Maglia Pua del Tour, bellissima, ci scrivo. Mandate, vero. Mandate tutto a Giorgio De Luca, il nostro autore. Ciao. Ciao. Arrivederci ragazzi. Ciao.